24 di Giovanni Minoli. Flop delle Le Pen, del Fronte Nazionale, dopo i risultati straordinari politici in qualche modo del primo turno, Fronte Nazionale perde in tutte le regioni, 7 vanno ai repubblicani di Sarkozy, 5 ai socialisti. La leader della destra denuncia vittime di intimidazioni, il premier Valls non abbassa la guardia, il pericolo dell'estremismo dice non è passato. Presidente Enrico Letta, buongiorno. Buongiorno, lei ha seguito le elezioni da Parigi, dove insegna dopo essersi dimesso dal Parlamento. Ecco, il risultato che non è assolutamente scontato di ieri sera, che cosa ci dice della Francia? Ma ci dice due cose sostanzialmente: da una parte che il fronte repubblicano, cioè tutti coloro che insieme si oppongono a Le Pen, è maggioranza in Francia; dall'altra parte ci dice che ormai il cleavage politico in Francia non è più tra destra e sinistra, ma è da una parte tra Fronte Nazionale e dall'altra parte tra Fronte Repubblicano, che mette insieme le ex destra e sinistra. Questo è quello che sembra emergere dal secondo turno di ieri. Un cambio di scena, ecco. Ma Valls, che ha portato a votare chi non era andato al primo turno con lo spettro della guerra civile, esce vincitore? Ma sicuramente i socialisti hanno recuperato rispetto a come era la situazione precedente. Probabilmente è servito sia il clima e quello che hanno, come hanno gestito in modo molto determinato il post 13 novembre. Hollande in particolare è stato molto efficace. Forse è servito anche l'accordo della conferenza sul clima, che probabilmente ha convinto tanti elettori ecologisti. Vissuto come un successo, sì. Beh, gli elettori ecologisti che hanno preso il 6% al primo turno si sono sicuramente convinti a votare per i socialisti al secondo turno. Però i socialisti, per impedire la vittoria di Le Pen, in qualche modo hanno dovuto fare una sorta di karakiri. Le due regioni nelle quali le due Le Pen erano in testa hanno visto il ritiro dei candidati socialisti, e sicuramente questo sì consente di non avere due Le Pen presidenti di regione, però dà loro l'argomento che gli altri si mettono d'accordo tutti insieme pur di non farle vincere. Questo secondo me in prospettiva è un argomento molto forte. Cioè è un argomento forte che può dare a Hollande delle chance in più per la presidenziale del 2017, secondo lei, Presidente? Questo risultato mi sembra complessivamente, tra il primo e il secondo turno, il miglior risultato che Hollande, che pur partiva da una molto situazione handicappato, di debolezza, potesse immaginare, perché tutto sommato questo risultato adesso creerà, credo, nel campo repubblicano dell'ex UMP, del partito oggi guidato da Sarkozy, credo che creerà mesi di grande tensione, perché già si è vista ieri sera una dichiarazione di Juppé, che è il candidato, sì, l'altro candidato alternativo alla primaria, a Sarkozy, sì. Una dichiarazione molto dura, perché sostanzialmente gli ha detto: tu stai inseguendo il Fronte Nazionale sulle sue posizioni e guarda come va a finire, guarda cosa succede. E quindi potrebbe esserci un duello Sarkozy-Hollande, diciamo? Ci sarà tutto l'anno prossimo, ci sarà una grande discussione soprattutto nel campo dei repubblicani, il grande dibattito sarà tra, credo, soprattutto Sarkozy-Juppé, con forse come terzo incomodo la sorpresa potrebbe essere Bruno Le Maire, che è un giovane che sta facendo molto bene, potrebbe incarnare il bisogno di rinnovamento che anche nella destra francese esiste ed è molto forte, nella destra repubblicana. Naturalmente, ma la Le Pen in ogni caso leader di un grande partito di opposizione e ha preso, mi sembra, 6 milioni di voti, no, di preferenze. Ecco, questa elezione lei la considera una battuta d'arresto da questo punto di vista, perché non ha vinto, o può crescere ancora la Le Pen? No, credo che sia invece un passo in avanti per Le Pen, È un passo in avanti perché dimostra di essere, come dicono i francesi, incontornabile, cioè tutto ruota alla fine attorno a lei politicamente, e questo a mio avviso è un segnale molto negativo. È anche vero che il risultato dimostra che lei non ha margini di crescita in termini di alleanze, però è molto forte il fatto che in Francia i tempi della Le Pen, quindi, che sono sostanzialmente il tema antieuropeista antieuropeista, ma anche e soprattutto il tema del popolo contro le élite. Infatti basta vedere la differenza tra il risultato di Parigi, dove il Fronte Nazionale ha preso un dato bassissimo, poco sopra il 10%, e i risultati invece delle estreme sud e nord, dove è andato al 45%. È impressionante la differenza. Il paese proprio diviso su questo punto. E anche questa retorica che loro lanciano molto forte, il popolo contro le élite, e in questo senso io credo che la democrazia debba porsi il problema di come accogliere, nel senso che ci sono dei milioni di elettori che non sono nemmeno rappresentati in Parlamento in Francia, perché hanno un sistema per cui hanno soltanto il Fronte Nazionale, certo, 2 o 3 parlamentari, niente di più, non prendono regioni adesso, quindi credo che questa estremizzazione continuerà, anche un senso di esclusione rischia, certo, di continuare, e questo senso di esclusione secondo me non è salutare alla lunga, perché gli elettori devono tutti sentirsi rappresentati nella casa comune della democrazia. Questo è un tema da un certo punto di vista che noi italiani abbiamo sviluppato nel tempo di più, forse questo ci ha portato a situazioni più caotiche, più politiche, caotiche, però tutti rappresentati, però la questione della democrazia accogliente secondo me è una delle, nel tempo di oggi, una delle grandi questioni. Certo, lei parlando del risultato del primo turno della Le Pen, l'altra volta ci aveva detto che in rapporto ai fatti di Parigi non c'era stata una reazione, perché sono determinati da questo disagio diffuso che si polarizza, come dice lei. Mi sembra che sia confermata questa analisi, tutto sommato. Sì, e tra l'altro secondo me anche il messaggio che oggi Le Pen, cioè stanotte Le Pen ha dato, un messaggio in cui già fa capire quale sarà il tono del prossimi 18 mesi, cioè da una parte lei dice ci sono i mondializzati, dall'altra parte ci sono i patriotti. E per mondializzati dice tutti quelli che vogliono far scomparire la Francia dentro dinamiche di globalizzazione, che siano di destra o di sinistra, e mette insieme ovviamente i repubblicani e i socialisti, e dall'altra parte dice lei ci siamo noi i patriotti. E questo messaggio è un messaggio molto forte, perché è il messaggio con il quale lei si rivolge a tutti coloro che in Francia hanno perso rispetto a questi 20 anni di globalizzazione. E sono molti contadini, molti, certo, commercianti, molte piccole imprese. In fondo è un messaggio molto simile a quello anche in Italia, perché in tutta Europa alla fine le dinamiche di globalizzazione hanno lasciato... portano a questa contrapposizione le dinamiche di globalizzazione abbastanza dappertutto, quindi per l'Europa il problema c'è. Il problema c'è, e soprattutto bisogna assolutamente evitare che l'Europa venga vista o dipinta come qualche cosa appunto di lontano, di mondializzato, di globalizzato, non in grado invece di legarsi ai territori. Ricordiamoci sempre che invece dei grandi successi dell'Europa sono stati i fondi strutturali europei, che hanno aiutato regioni intere, territori interi ad avere infrastrutture, fondi sociali che sono serviti per fare occupazione. Forse bisogna che l'Europa Perché non è più percepita così? Perché in questi ultimi anni si è pensato, o meglio, bisognava farlo, ma si è esclusivamente concentrato l'impegno europeo sulla dinamica monetaria dell'euro, cosa che io ritengo utile, perché sono tra quelli che pensa che senza euro sarebbe andata molto peggio, pensiamo noi italiani con la lira come sarebbe andata. Sì, però a parlare solo di euro la gente non si riconosce. E poi non è un problema soltanto di parlare, anche di fare, certo, nel senso che anche tutta questa dinamica dei fondi strutturali europei, l'impegno sull'Erasmus, tante cose che consentivano ai cittadini dei diversi paesi europei di riconoscersi e di conoscersi, una casa. Certo, esattamente. Ora tutto questo è finito in secondo piano, non solo nella comunicazione ma anche nelle priorità europee. Bisogna che l'idea di un'Europa della prossimità torni, sì, centrale. Se questo non c'è, io temo che le idee come quelle della Le Pen, che poi in Italia sono rappresentate, certo, da Salvini, altri, diciamo, sostanzialmente, idee molto forti, perché i cittadini finiscono per sentirsi lontani, non accolti, non rappresentati da un'Europa che rischia di essere vista come molto troppo, ecco, lontana. Ma tradotto in italiano praticamente come se in Italia per non far vincere i 5 Stelle PD votasse Berlusconi o viceversa, in un ballottaggio eventuale, più o meno una cosa del genere. Sarebbe una cosa di questo genere, credo alla fine che dinamiche simili portino soltanto a rafforzarsi chi chi è oggetto di accordi così forti per escluderlo. Però in Italia la vedo più complessa, perché abbiamo, ripeto, una democrazia nella quale, per esempio, i 5 Stelle da più di due anni sono in Parlamento, molti, molto rappresentati, possono lì dimostrare, certo, se sono le loro idee, sono idee che riescono ad avere una capacità di essere applicata oppure no. Quindi io penso che da noi ci sia una maggiore abitudine a includere nelle istituzioni. In Francia hanno sempre avuto questa tesi della forza delle istituzioni, certo, che dà stabilità, e questo è sicuramente un fatto che ha la sua elemento di positività. Ha una controindicazione, che è quella che abbiamo citavo detto, prima. Sì. Ecco, Presidente Letta, lei ha citato gli accordi di Parigi sul clima. Secondo lei sono importanti, anche se non si sono date, non ci sono sanzioni? Guardi, io sono tra quelli che pensa che di gran lunga il rischio che si andasse a un qualcosa di molto più basso c'era. Gli accordi sono molto importanti, innanzitutto perché per la prima volta sono coinvolti tutti i paesi. Questo, diciamo, il dato è questo. Questa è una cosa essenziale, perché se noi continuassimo a pensare che ce la giochiamo solo noi europei con pochi altri, sappiamo tutti benissimo che il problema della riduzione delle emissioni è fuori dall'Europa. Certo, riguarda l'India e la Cina soprattutto. Basta pensare che la Cina ha più del 60% di energia prodotta col carbone. Ecco, ma come si può pensare che loro, India e Cina, riducano il loro potenziale di produzione rinunciando al carbone? Ma credo che un grosso passo avanti sia quello dei risultati di questa conferenza, oltretutto con quel fondo che verrà creato per aiutare i paesi più in difficoltà. Aggiungo anche che i cinesi stanno cominciando a capire che il ragionamento non è per i prossimi 80 anni, certo, è per loro per subito. Immediato. Basta vedere le immagini di Pechino. Sì, è devastante quell'immagine. E io aggiungo anche che anche per noi italiani e per noi che viviamo in Europa il messaggio deve essere molto forte. Guardate che l'Europa, per esempio sull'ambiente, è all'avanguardia, e un'Europa più unita renderà possibili i risultati. Può diventare un modello, insomma, di Parigi. E aggiungo anche, io penso che nessuno voglia, di noi italiani o di noi che viviamo in Europa, voglia immaginare che i propri figli vivano in un mondo le cui regole dell'ambiente siano scritte da cinesi e americani e non da noi europei. E noi europei, se saremo uniti, saremo in grado di renderle forti e influenti queste regole, certo, altrimenti rischieremo di essere marginali. E io credo che ne avremo tutti molto da perdere. Senta, Presidente Letta, un'ultima domanda. Lei è stato Presidente del Consiglio mentre in Europa si discuteva il bail-in. Ecco, il PD allora votò compatto la nuova legge che prevede che anche i correntisti possono pagare in caso di fallimento delle banche. Lei sta seguendo quello che capita in Italia. È stato un errore quello? Guardi, il tema è che sulla banking union, sull'unione bancaria, quando si è fatto il voto e si è deciso, secondo me giustamente, di andare avanti, si doveva fare passi ulteriori. Questi passi ulteriori sono rimasti a livello europeo a mezzo, e credo che oggi ci rendiamo conto tutti benissimo del fatto che c'è bisogno di fare probabilmente a livello europeo passi avanti ulteriori. Quindi credo che la vicenda dell'unione bancaria, che nel 2013 aveva avuto un passo avanti molto importante, abbia avuto poi successivamente delle frenate, e queste frenate penso che siano da rivedere oggi. Ecco, ma questo decreto salva banche, lei come lo giudica? Guardi, non sono in grado di dare un giudizio perché non l'ho visto nel merito. E d'accordo, non sono in grado di... va bene. Non voglio dire parole che non siano informate. D'accordo, grazie Presidente, 800-24-0024, numero verde, 349-238-6666, l'SMS, dunque, del salvataggio noi di queste quattro banche, del fondo per i rimborsi, le polemiche che sono fortissimi in questi giorni, ne parleremo domani, e intanto restiamo sulla Francia e entriamo appunto dentro questa notizia. Mix 24, dentro la notizia. Ecco, allora Mario, questo vocio che cosa ci insegna? questo voto francese? Ma che il barrage, cioè lo sbarramento elettorale ha funzionato. Che Sarkozy, io non sono d'accordo sull'analisi che ha fatto Letta adesso sul fronte repubblicano. In realtà Sarkozy per me si è mosso con grandi abilità, non si è confuso, ha giocato sulla retorica della République, naturalmente, che in Francia è tutto, non si è confuso né con la destra né con la sinistra, alla fine ha preso 7, voglio dire, e i socialisti 5. Io lo considero il candidato numero uno all'Eliseo nel 2017. Tu, Pietrangelo, che dici di questa... La lezione che se ne ricava è una, cioè che la sinistra per vincere deve votare la destra, che hanno dovuto creare questo asse obbligato, in un certo senso. Quello c'è una battuta bellissima di Francesco Storace, le pacte de Nazareno, che lì ha funzionato, però rivela un fatto vero e concreto che coinvolge tutto il continente europeo, e cioè che c'è una netta distinzione, come ha detto Marine Le Pen, tra i mondialisti, cioè tra coloro i quali vogliono sciogliere e diluire tutte le identità, e chi invece da patriota si oppone a tutto ciò. Noi intanto con noi al telefono abbiamo Marco Tarchi, politologo, professore all'Università di Firenze, profondo studioso, conoscitore della destra europea e italiana. Buongiorno professore. Ecco, buongiorno a lei. Il risultato del voto delle regionali in Francia l'ha sorpreso? No, per niente, intanto perché studio il Front National da diversi anni, in generale le formazioni populiste, quindi come dire sono abbastanza aggiornato sulle cose e sapevo quali erano i dati dei sondaggi prima del primo turno, e d'altronde anche mi era abbastanza chiara la dinamica che poteva portare a quello che è successo nel secondo turno. Ecco, cioè Marine Le Pen secondo lei ha raggiunto il suo massimo risultato o ha ancora spazio? No, ha raggiunto il risultato massimo in questo momento, e mi pare interessante notare un dato per ora poco citato, in generale ho visto anche nella stampa stamattina, cioè che nel secondo turno il Front National ha ottenuto circa 820.000 voti in più che nel primo, conseguentemente ha quasi toccato i 7 milioni di voti. Questo è un record assoluto anche rispetto al dato delle elezioni presidenziali del 2012. Questo vuol dire che c'è una tendenza di una parte dell'elettorato che era ancora abbastanza incerta, pur avendo qualche simpatia per i temi di battaglia, diciamo, del Front National, a scongelarsi e ad accostarsi. Naturalmente non è bastato per poter vincere in qualche secondo turno, però è un dato a mio parere piuttosto significativo. Ma diceva il presidente Letta prima che il margine di crescita della Le Pen però non sono nelle alleanze, e quindi sono soltanto nella sua solitudine, cioè o vince da sola oppure niente. Sì. Sono d'accordo con questa analisi, perché in realtà il partito, che ha una storia, come sappiamo, di ormai più di 40 anni di vita, si è molto evoluto, e non solo, ma soprattutto dal momento del passaggio, diciamo, dello scettro dal padre alla figlia, che poi ha ripudiato il padre. In questo passaggio ha abbandonato quasi totalmente le posizioni che venivano indicate come di estrema destra fino a pochi anni fa, ed è diventato un partito pienamente populista. I partiti populisti non possono fare alleanze, se fanno alleanze vengono squalificati agli occhi di una parte del loro elettorato. Ecco, professore, ma non è forse anche che un programma politico che in Francia e anche in Italia dice no all'euro, no all'Europa, no agli immigrati, alla fine va benissimo per fare l'opposizione, ma non porterà mai al governo? Questo è possibile, d'altro canto dipende anche dall'evoluzione dello stato di cose, perché se dovessero rimettersi un po' in sesto in Francia o altrove, sicuramente questo nuocerebbe al Front National. Se viceversa si dovessero accentuare i motivi di disaffezione e di disagio in una parte sostanziosa della popolazione, quella di cui parlavate prima, cioè i cosiddetti perdenti della globalizzazione, in questo caso invece potrebbe accadere l'esatto contrario. Il problema dell'alleanza è un problema complicato, ovviamente. Certo. Ma secondo lei qual è la lezione che arriva per la destra italiana qui da queste elezioni? Se c'è una lezione possibile? Secondo me direttamente Direttamente nessuna. Indirettamente è chiaro che questo delinea delle strategie molto diverse, cioè o si segue la, diciamo, la posizione al di là della destra e della sinistra, come la Marine Le Pen lo ha definito quando ha fatto il suo meeting fra il primo e il secondo turno, e quindi si punta su tematiche che abbandonano per molti versi il retroterra storico del Front National, si cresce, e potrebbe succedere anche in Italia appunto con formazioni tipo quella di Salvini, però naturalmente diventa più difficile poi dialogare con un elettorato di destra conservatrice che in Italia per ora ha ancora avuto altri referenti, anche se questi sono fortemente indeboliti. Pensa a Berlusconi, naturalmente, no? Penso in generale al centrodestra o a quel che ne rimane. Senta, Renzi, a differenza di Hollande, secondo lei, in virtù di questa divisione all'interno del centrodestra, ha una strada più facile? Ha una strada secondo me più difficile per certi versi, perché Renzi ha ovviamente operato, diciamo, una strategia di confluenza verso il suo partito, verso il centro, di una parte di elettori anche di centrodestra, però ha contro non un movimento populista con un passato di destra radicale, ma ha contro soprattutto il Movimento 5 Stelle, che è post ideologico, come molti dicono, e quindi è molto più difficile per lui combatterlo su un piano, diciamo, di richiamo, come è stato in Francia, da imprenditoria della paura, cioè guardate che verrà la guerra civile e tutte queste cose qui, insomma. Ecco, ma non è che con il nuovo sistema elettorale, cioè con l'Italico, ma alla fine il risultato potrebbe essere favorevole a Grillo? Sì, certamente questa possibilità c'è, proprio per le ragioni che dicevo, cioè che un elettorato, per esempio il centrodestra, non avrebbe molte remore, secondo me, in buona parte a votare Grillo se arrivasse poi, o meglio il Movimento 5 Stelle, se arrivasse al ballottaggio contro il centrosinistra. Questa è una prospettiva, secondo me, assolutamente plausibile. Grazie professor Tarchi, grazie professore. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Mario, interessante, no, quello che dice Tarchi? Sì, beh, Tarchi è bravo, conosce bene le dinamiche della destra europea e italiana, e aggiungo che c'è tutta una riflessione sul doppio turno che andrà fatta anche in Italia, visto che noi abbiamo un modello che prevede poi un doppio turno se non scattano alcune condizioni, che è appunto quello dell'Italicum, e però il doppio turno ha una logica stringente, come abbiamo visto alla fine. Quindi ecco, un altro dibattito che si può aprire secondo me in Italia è questo: che sistema elettorale abbiamo disegnato rispetto al paese? C'è un grosso dibattito in corso adesso, proprio in questo momento, sì, sui media francesi e in diretta, sul fatto che il sistema è tripartito, per loro ormai questa è una condizione, diciamo, strutturale assodata. Ecco, in più, se posso darti delle notizie, adesso dunque le borse hanno aperto positivamente in Francia, in Francia e in tutta Europa, lo stocks europeo sta andando bene. La cosa interessante è che io, che sono diciamo un lettore di queste cose, la newsletter quotidiana di UBS, che è banca svizzera, un gigante del credito mondiale, ha appena commentato positivamente il voto in Francia, perché dice così i mercati si sentono più rassicurati, non ci saranno strati mercatisti, come diceva Pietrangelo. vediamo il chiodo per appendere il quadro, in questo che dice, caso appende il quadro. E volevo dire una cosa, Giovanni, collegata a quello, al tuo colloquio con Enrico Letta. Se quello che è capitato in Francia capitasse in Italia, e cioè che per non far vincere 5 Stelle il PD, Berlusconi, tutti insieme si unissero, finirebbe in un altro modo. Per esempio, nel caso italiano prossimo, sì, faccio un esempio che conosco bene, quello siciliano. Stanno cercando di mettersi insieme tutti, dal PD a Forza Italia, contro i 5 Stelle. Vinceranno sicuramente i 5 Stelle. E c'è una differenza di fondo tra l'Italia e la Francia, e cioè che sui 5 Stelle non vale la demonizzazione che invece è stata messa in atto contro Marine Le Pen. Cioè, per non si può dire guerra civile, proprio perché sono in Parlamento e hanno... No, insomma, sono... non hanno neppure l'ipoteca ideologica, appunto, che invece c'ha Marine Le Pen, che pur avendo dichiarato, e chiaramente non è più un partito di destra, avendo pur dichiarato la sua distanza tra destra e contro la destra e contro la sinistra, è comunque demonizzata, sì, ed è un risultato drogato, tant'è vero che i socialisti si sono ritirati, certo, pur di far Infatti, votare. Detto, si sono suicidati. Si sono, in ecco. Però in Italia non c'è la demonizzazione. No. E quindi dici la Sicilia può essere veramente un terreno di sperimentazione, come è stato tante volte. Sì, ma io serio. Immagino che anche per esempio nella tua città, Torino, ne vedremo delle belle. E sono sicuro che i 5 Stelle lì bastoneranno Fassino. Ovviamente anche, bastonata in metafora. No, metafora. C'è anche un altro aspetto, che le elezioni francesi, giusto per chiarire ancora di più il campo nel dibattito italiano, che le elezioni francesi, le regionali e le presidenziali sono completamente diverse, c'è anche un altro sistema. Nelle presidenziali soprattutto tu devi essere capace di fare la coalizione, quindi per la Le Pen è veramente difficile che lei possa andare all'Eliseo. Può arrivare sicuramente al secondo turno, è uscito un sondaggio ieri notte, ma perderebbe contemporaneamente con Juppé che avrebbe il 71, con Hollande che avrebbe il 61 e con Sarkozy che avrebbe il 62-63. Vabbè, che oramai ai sondaggi ci credi solo più tu, eh? No, io non credo ai sondaggi, io credo ai risultati. I risultati di ieri sono stati chiari. Il sistema elettorale delle presidenziali effettivamente è molto difficile. Tutta la riflessione che ha fatto secondo noi Pietrangelo è molto acuta, nel senso che la vera differenza tra noi e la Francia la fa il Movimento 5 Stelle, che in Francia Grillo non c'è. Non c'è neanche più in Italia, che ha detto che si ritira lui. E con l'Italicum, così come è strutturato, stato strutturato e voluto così dal PD e da Berlusconi, in realtà il vero tema è che Grillo può vincere le elezioni. Che forse hanno sbagliato legge. Ma sicuramente! Faccio una bella... Dai, chiudiamo queste parole di riflessione. Hanno fatto il premio alla lista e non alla coalizione, ma come si fa? Chiudiamo con una bella canzone, Mario, ce l'hai? E ce l'ho e ve la faccio sentire adesso, perché è lei. In the springtime I love Paris in the fall. I love Paris in the winter. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, gli sms, ricordo di firmare gli sms che li leggiamo volentieri se sono firmati, anche quelli di insulti, anche quelli di insulti non c'è problema, ma firmati, grazie. Pubblicità. Mix 24. Tanti messaggi, commenti sui risultati delle elezioni in Francia, dicono di tutto. Fabio per esempio dice: quando dite voti a Grillo, non voti al Movimento 5 Stelle, si capisce che avete paura, non sapete che la gente paura. Come vuole. No, abbiamo detto Grillo solo per semplificare. Dice un altro, Sebastiano, che si firma, dice: non sono militante del 5 Stelle, ma bisogna ammettere che non c'è demonizzazione ma oscuramento mediatico, di fatto è quasi la stessa cosa. Beh, insomma, oscuramento mediatico, mi sembra che da quando i 5 Stelle hanno deciso di parlare, parlano, vengono, fanno. Ma poi l'oscuramento mediatico in realtà non serve a niente, perché quando, mi ricordo che quando la Lega vinse la prima volta non ne parlava nessuno. Bravo, esatto. E i giornalisti manco sapevano chi fossero i leghisti. Proprio vero, sì, è successo, sono arrivati dopo. Profondo dopo. Nord è arrivato dopo. Come 800 24 0024 numero verde 349 238 6666, gli sms, la tua canzone Pietrangelo. Instead of feeling bad, be glad you got somewhere to go. Instead of feeling sad, be happy, you're not all alone. Instead of feeling low, get high on everything. Beh, you love. E invece di perdere tempo, fatti appagare da ciò che sogni, è il verso di questa canzone, un verso che ben si innesta nell'insegnamento degli insegnamenti, cioè ama chi t'ama se vuoi avere spasso, chiamare chi non t'ama è tempo perso. Aspetta, com'è che mi interessa molto. Ama chi t'ama se vuoi avere spasso, per chiamare chi non t'ama è tempo perso. Quante volte ci capita? E stamattina ha chiamato al centralino Giovanni Percolla, ricordate? È quello del Don Giovanni in Sicilia. Ha chiamato lui, ha scelto questa canzone e ha voluto dedicare a Chicca con un messaggio: fa che sia così, lasciati andare. È lunedì. Almeno lunedì. Bella, scelto la Perù. Jazz raffinato stamattina. Finalissimo. Vabbè, riprendiamo il nostro mesto lavoro, Mario, dai. Mamma mia, perché mi dici queste cose? Che d'amore parla solo lui. Senti, però anche questa è bella, eh. Qualcuno la riconosce? Vabbè, questa è la colonna sonora di un film straordinario che era La Stangata, un Paul Newman gigantesco, e vabbè, un Robert Redford gigantesco, pure, vero, eh? Anche lui, una sceneggiatura meravigliosa, una colonna sonora unica, una storia incredibile, una sala corse, ve la ricorderete, dove si truccavano le corse dei cavalli. E vabbè, io La Stangata perché? Perché se c'è una stangata è quella che si sta dando il Parlamento da qualche sedutina. Segnalo che oggi alle 15 il Parlamento in seduta comune si riunisce per eleggere 3 giudici costituzionali. Sono arrivati alla modica quantità di 30 sedute. Vediamo se ce la faranno. Se ce la fanno. Sarebbe un bel risultato. Beh, questo però, ecco, alla luce delle cose francesi, ti dimostra che cosa? Che quelli comunque hanno un sistema istituzionale. C'hanno lo Stato. Esatto. E qui noi non rispettiamo neanche la consulta. Ma di cosa stiamo parlando? Dai, Salamino! C'era una volta, c'era due volte e due volte vale il racconto di Totò. E Salvatore Cuffaro, esponente di spicco della Democrazia Cristiana, già presidente della regione siciliana, condannato per mafia, ma unico politico nella storia d'Italia, dell'Italia repubblicana, ad avere pagato il conto con la giustizia. 5 anni. E 5 anni fa, dopo aver ascoltato messa, all'alba si presentava ai cancelli di Re Bibbia e sabato mattina, 5 anni dopo, una festa improvvisa si accendeva per lui per preparare la giornata di ieri, la sua scarcerazione, e lo hanno festeggiato tutti a Totò, tutti in carcere lo hanno festeggiato e hanno scelto proprio le note di Bob Dylan e lo hanno festeggiato sia l'amministrazione della casa circondariale, che poi lo hanno festeggiato anche gli agenti penitenziari, e poi lo hanno festeggiato i detenuti. Perché? Perché c'era due volte Totò. E per dirla con un grande pezzo di Roberto Puglisi, quando 5 anni fa lui varcò la soglia, potente com'era, invece che una cella singola, che pure gli venne offerta, scelse da subito di stare con gli altri e di dedicarsi agli altri. Matricola 87833, Salvatore Cuffaro. Nessuno più osava chiamarlo Totò, e invece in carcere lui ha scelto di ritornare a essere Totò, di occuparsi dell'orto, della persona e delle persone, perché lui ha detto: hanno voluto e pensato di mandarmi all'inferno, io ho accettato e ci sono andato senza che nessuno mi venisse a prendere, ho scoperto il mio giardino interiore e ho compreso il perché gli alberi piangono quando vengono abbattuti dal fulmine o dall'ascia del boscaiuolo. Insomma, è uscito ieri dal carcere dopo 5 anni, ha pagato col dolore e con la dignità, e poi ha fatto il viaggio in macchina da Re Bibbia fino ad arrivare in Sicilia, e quando è arrivato allo stretto di Messina, imbarcandosi, è uscito dall'auto, si è affacciato e ha trovato chi l'aspettava: la Madonnina di Messina. Vabbè, un uomo che ha pagato il suo... Beh, grande dignità, però, prezzo, ieri uscendo dal carcere. Quello, devo dire, certo. Quello devo che dire... dovrebbe essere normale diventa eccezionale. Sì, sì, sì. Intanto il terrorismo miete sempre più vittime. Secondo il Global Terrorism Index, l'indice del terrorismo globale, l'80% in più di morti rispetto al 2013 nel 2014. Nella classifica macabra dell'orrore, in cui l'ISIS è al secondo posto, il primato del gruppo terroristico più sanguinario è quello di Boko Haram. Al centro, la storia di Boko Haram è al centro della prima puntata della nuova stagione di Confessione Reporter di Stella Pende, in onda questa sera. Alessandra Fiori l'ha intervistata. A Damasak sono arrivati alle 9 del mattino, sparavano su tutti. Bambini, famiglie e vecchi. Correvano come pazzi. Urla, pianti, ci inseguivano. Allora ci siamo buttati nel fiume. Alcuni nuotavano, altri affogavano. Una donna incinta di molti mesi camminava nell'acqua col suo bambino sulle spalle e le hanno sparato addosso. 10 volte. L'acqua del fiume era rossa, del suo sangue e di quello del bambino che aveva nella pancia. Era una pillola del bellissimo reportage su Boko Haram che andrà in onda stasera su Rete 4 aprendo la nuova stagione di Confessione Reporter di Stella Pende. Ecco, Stella Pende, per realizzare questo reportage sei stata a Diffa, una delle città più colpite dal terrorismo dei Boko Haram, proprio al confine tra Niger e Nigeria. Qual è stata la cosa più difficile da filmare? Guarda, la cosa più difficile è stata raccogliere la testimonianza di un bambino e di un uomo che mi hanno raccontato che quando scappavano in un fiume, la gente veniva colpita da questi di Boko Haram che li inseguiva dietro. È stata colpita una donna incinta e questa donna si è accasciata perché l'hanno trivellata di colpi e purtroppo il bambino che aveva nella pancia, insomma, a un certo punto si è perso nell'acqua. Ecco, quello ti posso assicurare che non è stato veramente, come dire, mi ha passato il cuore. Ci credo, ma tu, donna occidentale, tra gli uomini di Boko Haram, hai avuto paura? No, non ho avuto paura, ma ho avuto rabbia, ma non perché sia una superwoman, perché quel tipo di terrorismo così fanatico, così furioso, così feroce, stupido, mi dà più rabbia che paura. Poi la paura ce l'ho di notte, ecco, lì la paura ce l'ho avuta di notte, perché si sentivano degli scoppi, perché eravamo senza luce, perché mi aspettavo che c'era un'atmosfera per cui sembrava che qualcosa di orrendo dovesse succedere da un momento all'altro, come è successo, perché naturalmente il kamikaze si è fatto scoppiare la mattina all'alba e quindi abbiamo avuto tutti molto paura. Ma insomma, la paura quando sei davanti a loro, quando sei in mezzo alle loro storie e ai loro crimini, non ce l'hai, sei solo arrabbiatissima. Stasera su Rete 4 la nuova stagione di Confessione Reporter di Stella Pende. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms. E Mario, c'è ancora una bolla? Sì, perché... You better watch out, you better not cry, better not pout. M'hanno bloccato. Io volevo dire che il buon Bocelli annuncia che Santa Claus is coming to town, sta per arrivare a Natale, vai. Consiglio di guardare questo brano su YouTube, perché è delizioso. Bocelli canta con un coro di bambini, meraviglioso, sentite. Questi bambini, eccoli. No, è molto carino, è una raccolta di Natale di un paio d'anni fa di Bocelli, molto bella sempre, ce ne sono tante in vendita in questi giorni. E per dire cosa, che gli ultimi scampoli del 2015 ce li godiamo anche nel mondo della politica. Abbiamo avuto le elezioni francesi, le istituzioni europee si stanno preparando a un rush finale, domani c'è un vertice dei capi di Stato, sono state appunto archiviate le elezioni in Francia, tocca agli inglesi perché c'è della discussione sul Brexit, cioè sul referendum che gli inglesi terranno sull'uscita o meno dall'Europa. Cameron sta giocando abilmente tutte le sue carte. Ci sono 130 parlamentari conservatori che sono a sostegno dell'uscita del Regno Unito, quindi è una cosa molto seria. Probabilmente Cameron tratterà delle buone condizioni con Juncker e con i partner, con gli altri per paesi, restare. Per restare. Nel 2016 la presidenza dell'Olanda, secondo me, voi direte, ma l'Olanda no, e invece sì, e sarà da tenere d'occhio. E la terremo d'occhio. Canzoniere. Si devono aprire le stelle nel cielo sì tenero e vivo. Là, presso le allegre ranelle, singhiozza monotono un rivo. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Vivevamo nel terrore. Quando avevamo da dire cose importanti, sussurravamo appena. Tutti evitavano di parlare di problemi politici. Qualsiasi tipo di discussione era pericolosa. Se parlavi con un amico, non potevi mai essere sicuro che non sarebbe andato a riferire le tue parole a qualcuno o che ti avrebbe denunciato. Non potevi fidarti di nessuno. Spesso persino i figli denunciavano i propri genitori. C'erano microfoni dappertutto, soprattutto in quell'edificio. Mosca 1928. Stalin ordina che i dirigenti del partito e i vertici militari vivano insieme in un edificio a pochi passi dal Cremlino. Per il popolo era la casa lungo il fiume, una costruzione moderna, con un cinema, un teatro, un ristorante, una meravigliosa utopia che finirà nell'orrore delle purghe staliniane. Il palazzo del terrore, l'ultimo segreto di Stalin, testimonianze, documenti inediti, rivelazioni. Qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. Mix 24. Risentiamo ancora il canzoniere? Si devono aprire le stelle nel cielo sì tenero e vivo. Là, presso le allegre ranelle, singhiozza monotono un rivo. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Mario, una bolla finale? Sì, una bolletta. Ma chi gli ha preso a Cromwell di fare un giro di conferenze? Perde 60 milioni a trimestre. Parlerà su come si perdono soldi. Gesù Cristo, se vendesse mare non morirebbe più nessuno. Questo è fantastico, è la famosa telefonata che fecero a Gordon Gekko nel suo ufficio. E se vendesse Bari non morirebbe più nessuno. Allora qua la situazione è che noi domani parliamo di banche, non Giovanni. Tempi duri non solo per i risparmiatori ma anche per chi ci lavora, perché l'anno scorso il sistema bancario mondiale ha lasciato a casa 100.000 posti di lavoro, 100.000 licenziamenti. Ne sono annunciati ancora altri da Barclays, da altri giganti del settore. È un'ondata che non si ferma dal 2007, tra tecnologia, crisi, cambiamenti, razionalizzazioni. Cambiata la banca, sì, è cambiato un tempo, il modo di fare banca inarrestabile. Sì, un tempo se tu lavoravi in banca eri sicuro adesso, ed era un mestiere anche considerato importante. È cambiato tutto. Domenico da Siracusa. Domenico, buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa ci racconta? La mia sera di Giovanni Pascoli. Ah, giusto! Bravissimo. Che conosciate, tempo fa a Siracusa oggi? Il sole? Sì, quasi sole. Sì, e la cuccia come fu? La cuccia non l'ho mangiata, maestro. Cos'è? Nessuno me l'ha fatta. Scusa, cos'è la cuccia? Noi che siamo del nord. La cuccia è un dono votivo per Santa Lucia con il grano. È buono, si mangia. È buono. Il grano cotto con il miele o con l'olio. Fantastico, benissimo. Palermo lo fanno con la ricotta. Vabbè, era sempre leggero. Sempre Sicilia. I miei 100 kg una cosa. Grazie giusta. Domenico. Prego. E adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo come sempre le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste più significative del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA 5 ottobre 2015. Associazione tra ospedalizzazione per polmonite e vaccinazione antinfluenzale. Siamo ancora in periodo di vaccinazione antinfluenzale e prendo lo spunto da questo articolo per continuare a raccomandarla. Come sapete, la vaccinazione antinfluenzale è obbligatoria per gli ultra 65 anni e per tutte le persone anche sotto i 65 ma che hanno malattie croniche. Perché? Perché l'influenza di per sé non è un gravissimo problema, ma può diventarlo in chi è fragile. Avete tutti in mente l'immagine del bicchiere di cristallo sulla scatola? Basta poco per romperlo e per mandarlo in mille pezzi. E un pochino è lo stesso per alcuni anziani. Apparentemente sembrano sani, che senza particolari problemi, basta poco per mandarli in mille pezzi. E questo poco può essere l'influenza. Allora bisogna vaccinarsi. La conferma viene anche da questo articolo, che è andato a vedere quanti di quelli che avevano fatto la vaccinazione antinfluenzale venivano ricoverati per polmonite. La polmonite è quel piccolo grande problema che, piccolo se non vi dà ulteriori conseguenze, grande se ve ne dà, che può essere figlio di una influenza. E allora lo studio ha visto che tra i 2767 ricoverati per polmonite, quelli che avevano avuto la vaccinazione anti-influenzale venivano ricoverati di meno. E questo è una costante che si ripete e ci fa dire come la vaccinazione previene quella cascata di problemi che può venire da una banale influenza. E per chiudere, Gloria Guerrera ha scelto Passione di Neffa. Dammi passione, anche se il mondo non ci vuole bene, anche se siamo stretti da catene e carne da crocifissione. Presto noi sogneremo distesi al sole di mille primavere, il ricordo di questa prigione.